Le 13 in punto. GR24, il sole 24 ore. Il prefetto Mori a Palermo: non ci fu alcuna trattativa tra Stato e mafia. Caso Mesiano, il CSM apre una pratica a difesa del giudice. Industria in calo, ordinativi e fatturato ad agosto. Calcio Champions, stasera in campo Inter e Fiorentina. Buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Parliamo dunque subito di mafia. Deposizione oggi del prefetto Mario Mori, ex comandante del ROS dei Carabinieri a Palermo, nel processo in cui è imputato di favoreggiamento aggravato di Cosa Nostra assieme al colonnello Mauro Obinu per la mancata cattura del boss provenzano nel 95. Partiamo da qui, ci aggiorna in diretta Raffaella Calandra. Raffaella. Prende la parola dopo aver ascoltato in aula Luciano Violante e Giovanni Ciancimini. Il figlio più grande di Don Vito si alza dal suo banco di imputato per favoreggiamento e dice: non ci fu alcuna trattativa tra Stato e mafia. Mario Mori, già comandante del ROS, respinge l'accusa di aver avviato mediazioni sotto banco con Cosa Nostra per far finire le stragi, agevolando in cambio la latitanza di boss come Bernardo Provenzano. Conferma il generale i suoi incontri con l'ex sindaco di Palermo, riferimento dei clan di Corleone, ma racconta di averne parlato con Violante e Casella. Una trattativa per sua natura nota deve essere riservata. Prima di lui in aula l'ex presidente dell'antimafia aveva confermato la richiesta non esaudita a suo dire di un incontro da parte di Ciancimino. Se prima della conversazione con Violante Mori non parlò di quei contatti con l'ex sindaco, fu perché non si fidava in sostanza. Quando ancora non c'era la camera ardente per Borsellino, riferisce Mori, la procura chiese l'archiviazione dell'inchiesta mafia appalti che per Borsellino riferisce era la causa della strage di Capaci. Anche Don Vito aveva espresso non poche perplessità dopo il naufragio di quell'indagine, stando a Massimo Ciancimino. Suo fratello maggiore Giovanni ha parlato invece oggi in aula e ha ricordato di quando il padre gli chiese spiegazioni da avvocato sulla revisione del processo e, tirando fuori un foglietto, commentò: allora si può fare per il maxi processo. Questa mattanza deve finire, mi disse mio padre dopo la strage di Capaci, racconta oggi Giovanni. A lui Don Vito confermò di aver avuto contatti con l'altra sponda, ossia la mafia. E per ora è tutto. Grazie a Raffaella Calandra. Il commento di Daniele Biacchessi. Dove sta la verità sulle trattative tra Stato e mafia? Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, ha consegnato nei giorni scorsi ai magistrati il fax con il cosiddetto papello, che contiene in 12 punti le richieste dei boss mafiosi allo Stato. Dice che le richieste erano irricevibili e Don Vito le corresse. E Ciancimino Junior riferisce anche il nome del funzionario dello Stato preposto alla trattativa. Sarebbe il prefetto Mario Mori, ex comandante del ROS dei Carabinieri, il cui nome è emerso in numerose inchieste giudiziarie, tutte ancora in corso. Ora Mario Mori smentisce Massimo Ciancimino e alcuni collaboratori di giustizia che avevano confermato il tavolo di trattativa. Dice che tra mafia e Stato non ci fu nulla. Infatti i 12 punti chiesti dalla mafia non vennero mai attuati. Ma c'è un ma. Nello Stato qualcuno deve aver pensato che ci potevano essere i presupposti per questa trattativa. E poi ci sono fatti innegabili. Dal 1993, dopo le stragi di Georgofili, via Palestro e il fallito attentato allo Stadio Olimpico, è terminata di fatto la stagione stragista di Cosa Nostra. Cosa diede in cambio lo Stato alla mafia? Cosa venne trattato davvero tra organizzazioni criminali e apparati dello Stato? L'altra notizia in primo piano è il caso Mesiano. Ci sono novità, ci aggiorna in diretta Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Una pratica a tutela del giudice di Milano Raimondo Mesiano dopo gli attacchi di Mattino 5, la prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha votato all'unanimità a favore di Mesiano. Il giudice, ricordiamo, che ha deciso il risarcimento di 750 milioni di euro che la Fininvest deve alla CIR di Carlo Benedetti per la vicenda del lodo Mondadori. Domani già potrebbe arrivare la pronuncia definitiva del plenum del CSM. La tutela non riguarda solo il giudice Mesiano, ma l'intera magistratura Protezione Civile spiegano dalla prima commissione perché gli attacchi hanno avuto un effetto intimidatorio. Nel documento non si citano direttamente Premier, Silvio Berlusconi o capigruppo PDL, ma si parla genericamente di dichiarazioni pubbliche di autorevoli esponenti politici. Gravità viene rivelata soprattutto per la natura privata e non istituzionale dell'attività sulla quale la sentenza milanese si è pronunciata. Ricordiamo tutto ciò il giorno dopo le motivazioni della consulta sulla Dalfano, dopo che la Corte Costituzionale ha sottolineato che il Premier non è al di sopra dei ministri. Per il momento qui da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito. Il giudice mesiano, lo ricordiamo, era stato al centro anche della vicenda relativa al servizio mandato in onda su Mattino 5, servizio che ha spaccato la redazione di Video News. Ieri ci sono state le dimissioni dell'intero comitato di redazione. Libertà di stampa, libertà di informazione, se ne continua a parlare, ed oggi è stato pubblicato l'annuale rapporto sulla libertà di stampa nel mondo di Reporter Senza Frontiere. È una vera e propria fotografia sulla libertà di informazione nel mondo, quella scattata dal rapporto elaborato dai francesi di Reporters Sans Frontières. Gli Stati Uniti, dopo l'insediamento di Barack Obama, sono fra i primi 20 paesi in cui la libertà di stampa viene maggiormente rispettata, mentre a perdere terreno è l'Europa, con in particolare un peggioramento per l'Italia, che scende al 49esimo posto. Chiudono la lista, oltre il 170esimo gradino, paesi come Turkmenistan, Corea del Nord ed Eritrea. Il rapporto d'Oltralpe sottolinea come l'Europa, da molto tempo in una posizione esemplare nel rispetto della libertà di stampa, si trova ora a retrocedere con solo 15 paesi del vecchio continente contro i 18 del 2008 nei primi 20 posti della classifica. È inquietante constatare che le democrazie europee come Francia, Italia e Slovacchia continuano anno dopo anno a perdere terreno nella classifica, ha commentato Jean-François Gillard, segretario generale dell'organizzazione. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Due archiviazioni oggi da parte del Tribunale dei Ministri. La prima riguarda i voli di Stato, nella quale risultava indagato dalla Procura di Roma per abuso d'ufficio e peculato il Premier Berlusconi. C'è stata dunque l'archiviazione per il Presidente del Consiglio, archiviazione anche per il Ministro dell'Interno Maroni, per quanto riguarda invece l'inchiesta su un respingimento di 227 migranti salvati in acque internazionali nel maggio scorso. Sul fronte politico, più in generale, i riflettori sono puntati decisamente sul futuro prossimo all'interno dei poli. Il PD domenica, lo sapete, vota per le primarie. Nel PDL si susseguono le posizioni autonome dei finiani e non solo. Ieri la presentazione di una proposta bipartisan per il voto agli immigrati senza il consenso della Lega. Dove va il PDL? Lo abbiamo chiesto a Stefano Folli. Se si voleva fare del Popolo della Libertà un partito unico, non si può dire che la fusione sia finora soddisfacente. Una parte almeno della vecchia Alleanza Nazionale, quella più vicina al Presidente della Camera Fini, cerca con ogni evidenza di distinguersi su temi rilevanti del dibattito pubblico, dall'immigrazione all'ora di educazione islamica nelle scuole, fino alle questioni istituzionali, dove lo stesso Fini è intervenuto più volte per frenare le tensioni innescate da Berlusconi dopo la vicenda del lodo Alfano e per difendere il Presidente della Repubblica. Cosa significano queste distinzioni? In primo luogo si vuole dimostrare che il PDL non coincide con la monarchia assoluta di Berlusconi. In mancanza di regole chiare che definiscano la vita interna del partito, l'unica strada sono i messaggi politici all'opinione pubblica. Ma forse c'è dell'altro. La fedeltà di Fini e dei suoi all'alleanza di centrodestra è molto solida, ma è naturale che ci si interroghi sul futuro. L'attuale assetto, fondato sulla leadership di Berlusconi, non sarà eterno. Il domani o il dopodomani porterà novità, forse anche nuovi equilibri politici. Molti si preparano per quell'appuntamento, quando sarà, anche Fini e i suoi amici. Ed il nostro sondaggio di oggi riguardava proprio l'ora di religione islamica a scuola. Vi abbiamo chiesto se siete d'accordo, sentiamo come avete risposto. I nostri ascoltatori bocciano l'idea di un'ora di religione islamica da introdurre nelle nostre scuole. La proposta del viceministro Urso di aprire anche ad altre confessioni religiose, laddove ci sia un numero di studenti che lo giustifichi, è stata bocciata dal 75% di coloro che hanno risposto al nostro sondaggio. Ma Urso rilancia: discutiamone, anche perché l'alternativa rischia di essere un insegnamento religioso fai da te. Secondo secondo la Costituzione italiana e la legge italiana, i privati possono realizzare nel nostro paese delle scuole private, anche confessionali, purché rispondendo alle regole dello Stato. Quindi è possibile in questo paese che accanto alle 1000 moschee nascono 1000 madrasse. Noi possiamo tollerare questo? È utile per noi che il Corano venga insegnato chissà da chi? Bianco o Nero torna domattina alle 8:30. Per votare basta un click, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato di PDL, nel PD invece, come detto, si vota domenica per le primarie, ma come si vota? Urne aperte domenica 25 ottobre dalle 7 alle 20 in oltre 10.000 seggi. Per votare alle primarie bisogna avere più di 16 anni, carta di identità o tessera elettorale. Il problema per ora è individuare il seggio. In diversi casi, infatti, non basta inserire città e numero di sezione nel motore di ricerca del sito del Partito Democratico. Maurizio Migliavacca, responsabile nazionale dell'area organizzazione del PD. Sono state inserite una settantina di province, ma il database è in continuo aggiornamento e penso che al più presto ci saranno tutti. 110 le province. Stiamo facendo delle elezioni senza il Ministero degli Interni e senza le prefetture, con 70.000 volontari, quindi qualche disguido è più che giustificato. Chi non ha internet può chiamare il numero verde 848 88 88 00. Chi è fuori sede potrà votare nella città dove studia o lavora, ma solo previa comunicazione entro venerdì prossimo alla sede provinciale del PD di competenza. La possibilità di votare online è concessa solo agli italiani all'estero. Due le schede, una azzurra nazionale e una rosa regionale. Due anche gli euro da versare. Per votare naturalmente non occorre essere iscritti, ma elettori sì. Ancora Maurizio Migliavacca. Basta essere elettori, sottoscrivere una dichiarazione che si è elettori del Partito Democratico, firmare una liberatoria che consente di inserire il proprio nominativo all'interno di un albo pubblico per versare 2 euro, che sono un contributo per pagare le spese, non un euro arriverà a Roma. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. È intanto esploso il caso Campania dopo le infiltrazioni della Camorra nel partito a Castellammare di Stabia. Paolo Piacenza ha intervistato il commissario regionale campano Enrico Morando. Beh, quello che è accaduto non si può cancellare e io credo che naturalmente questa ombra sul nostro partito in questo momento c'è e dobbiamo lavorare per superarla completamente. Noi abbiamo fatto un lavoro per il quale ringrazio in particolare il presidente della commissione per il congresso, che ha lavorato in modo magnifico a mio giudizio per fare in modo che le elezioni si svolgano il più possibile in modo regolare, e approfitto della vostra gentilezza anche per fare un appello alle forze dell'ordine. Abbiamo mandato loro con puntualità l'individuazione dei seggi, spero che abbiano le forze e valutino l'opportunità. Certamente noi vediamo la necessità di una presenza che segnali immediatamente ai presidenti di seggio se fuori dal seggio c'è qualche persona nota come persona poco raccomandabile, mettiamola così, e se ci sono movimenti anomali, cose che meritano di essere segnalate, per fare in modo che i presidenti di seggio possano immediatamente tenerne conto e comportarsi di conseguenza. Cerchiamo di fare tutto il possibile in un contesto nel quale, la mia opinione, è che noi non possiamo, siccome la Camorra vuole infiltrarci, vuole indebolirci, non possiamo dargliela vinta. Parliamo delle notizie dall'estero adesso. C'è un aggiornamento che arriva da Teheran, dove 100 deputati iraniani su un totale di 290 hanno sporto una denuncia contro l'ex candidato moderato alle presidenziali Mousavi, chiedendo alla magistratura di incriminarlo per avere agito in linea con i nemici della Repubblica Islamica. Tra pochissimo la viabilità, ma prima parliamo di tecnologia. Parliamo dei risultati sorprendenti e migliori delle previsioni per la Apple. Sarà un caso, ma anche questa volta il ritorno di Steve Jobs a Cupertino ha ridato slancio agli affari della Apple. Jobs è tornato a settembre dopo un trapianto di fegato che l'ha tenuto lontano per circa un anno, e a poco più di un mese dal suo rientro la borsa festeggia un trimestre che per l'azienda corrisponde ad un aumento degli utili da record, più 47% dovuti in gran parte al buon andamento delle vendite di iPhone e computer Macintosh. Calano invece le vendite di iPod, il lettore di musica MP3, ma anche perché ormai il prodotto prodotto è talmente diffuso in tutto il mondo che trovare nuovi clienti è sempre più difficile. Ora sarà interessante capire quanto le vendite di Mac negli ultimi mesi abbiano beneficiato delle difficoltà della Microsoft, che tra due giorni, giovedì, lancerà il nuovo Windows 7, un nuovo sistema operativo che potrebbe fare riprendere le vendite di PC. I buoni risultati di Apple seguono quelli della scorsa settimana messi a segno da Intel e Google. Entrambe hanno battuto le attese degli analisti, confermando i segnali di ripresa che arrivano dal settore tecnologico. Enrico Pagliarini, GR24, il Sole 24 Ore. Le 13:19, ben trovati da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato del prefetto Mori che ha deposto questa mattina a Palermo. Non ci fu, ha detto, alcuna trattativa tra Stato e mafia. Abbiamo parlato anche del caso Mesiano. Il CSM ha aperto oggi una pratica a tutela del giudice. Tra pochissimo parliamo invece, anzi subito lo facciamo, parliamo di crisi, ne abbiamo parlato anche nella prima parte, ma per parlare di risultati positivi, quelli della Apple. I segnali di ripresa ci sono, ma sono stati diffusi oggi i dati di fatturato ed ordinativi nell'industria e sono in calo. In diretta Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Dati Istat piuttosto allarmanti, con gli ordinativi ai minimi storici, calano infatti dell'8,6% ad agosto rispetto al mese precedente ed è il dato più basso dal 2000 e del 27,5% rispetto all'agosto del 2008. Pesante anche la situazione del fatturato d'agosto, con un meno 1,4% rispetto a luglio e una variazione del meno 21,2% su base annua. L'Istat precisa però che il calo su base mensile dipende da una diminuzione dell'1,1% del fatturato sul mercato interno e del meno 2 su quello estero. Contrazioni maggiori nel settore metallurgico, prodotti petroliferi raffinati, nella fabbricazione di apparecchiature elettroniche, meglio di prodotti farmaceutici. Agosto difficile anche per il fatturato dell'auto, sceso del 7,3%. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie ad Alessandra Schepisi, che proprio su questi dati ha sentito la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. Sentiamo come li ha commentati. Sì, ma intanto va detto che i dati di agosto non sono sempre poco significativi, perché agosto è un mese di ferie e quindi sono dati, oltretutto quest'anno con la crisi le ferie sono state ancora più allungate. Noi in qualche modo confermiamo che qualche piccolo miglioramento rispetto al trimestre precedente c'è, e questo lo vediamo dai vari indicatori. Questo però non significa che siamo fuori dalla crisi. Come diciamo già da tempo, la situazione è ancora difficile e abbiamo davanti ancora mesi complicati dal punto di vista dell'occupazione, dal punto di vista di una concorrenza e di una capacità di tenuta delle imprese che sarà sempre più complicata. Quindi noi confermiamo le nostre previsioni di leggero miglioramento rispetto ai mesi precedenti, ribadiamo però che la crisi non è finita e che abbiamo davanti ancora situazioni difficili. Sull'occupazione avete fatto previsioni? Ma sono un po' quelle che abbiamo già date. Noi stimiamo al 2010 una disoccupazione al 9,5%. Ad oggi la tenuta dell'occupazione è migliore in Italia rispetto ad altri paesi europei. Non v'è dubbio che sappiamo bene che avremo degli effetti nei prossimi mesi sull'occupazione che dovremo gestire con grande senso di responsabilità. Apriamo adesso la nostra ampia pagina di cronaca partendo da Milano. 5 arresti oggi per l'inchiesta sulla bonifica di 2 aree nella zona sud della città. Riciclaggio, frode fiscale e appropriazione indebita. Sono queste le accuse che la Procura di Milano ipotizza per l'imprenditore Giuseppe Grossi, 3 suoi collaboratori e Rossana Gariboldi, assessore di Pavia e moglie del parlamentare del PDL Giancarlo Abelli. Secondo quanto emerso, l'imprenditore della Sadi, una delle più importanti aziende di bonifiche ambientali per aree ex industriali, avrebbe gonfiato i costi di bonifica di Monte City Santa Giulia. Successivamente, grazie a un conto aperto a Monte Carlo, avrebbe fatto uscire dall'Italia centinaia di migliaia di euro per farli poi rimpatriare attraverso passaggi su un altro conto corrente monegasco intestato all'assessore Gariboldi. Le indagini si sono sviluppate a seguito dell'arresto a febbraio di 3 collaboratori dell'imprenditore, 2 ex ufficiali della Guardia di Finanza e l'avvocato svizzero Fabrizio Pessina. Secondo l'accusa avrebbero riciclato 22 milioni di euro. Federico Maselli, GR24, Il Sole 24 Ore. In Sicilia, in fin di vita, un disabile è stato aggredito a Ragusa. picchiato per avere cercato di difendere la cassiera di un supermercato di Ragusa. Un disabile di 58 anni è stato preso a calci e pugni davanti a decine di clienti perché è intervenuta a persuadere un balordo di 33 anni che, dopo aver prelevato della merce dai banconi, non voleva sentirne parlare di pagare il conto alla cassa. Alla reazione dell'impiegata, l'uomo Pietro Baglieri, 33 anni, arrestato dai carabinieri, ha prima inveito contro la donna e poi aggredito il disabile. Un vero e proprio pestaggio interrotto solo all'arrivo dei carabinieri. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Baglieri, invece, pregiudicato, nato in Germania e da tempo residente a Ragusa, dovrà rispondere di lesioni aggravate. Letizia Carrara, GR24, Il Sole 24 Ore, Ragusa. A Torino preoccupa la scritta apparsa ieri a firma Brigate Rosse contenente minacce ad un delegato della FIOM. Gli inquirenti lo hanno chiamato a colloquio per stabilire quale sia la sua colpa, forse quella di non essere riuscito a salvare dal licenziamento 30 operai dell'azienda Flexider di Torino. Le minacce firmate Brigate Rosse ad un delegato della FIOM piemontese si legano alla storia dell'azienda di componentistica per auto, che negli anni ha subito varie ristrutturazioni, l'ultima nel 2006, che ha pesato su 100 posti di lavoro. Situazione che ha visto coinvolto in prima persona il sindacalista. Racconta la storia Fabio Carletti della FIOM. Apre un confronto sindacale con la controparte. Le cose che si riescono a portare a casa sono 2 anni di cassa integrazione straordinaria, di più di quanto è previsto normalmente. Alla fine di questi 2 anni si strappa della cassa in deroga e poi, nella appena primavera scorsa, la cassa in deroga finisce, non rimane che la mobilità. Di quei 100 lavoratori interessati a questo percorso sono 30 coloro che non sono stati ricollocati. La FIOM comunque, per chi l'ha voluto, ha impugnato quei licenziamenti. Questo episodio è successo ieri ed è del tutto evidente che si mette in relazione a questa storia. Giovanna Boglietti, GR24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di cinema adesso. Tra i documentari nella sezione extra del Festival di Roma, un film dedicato ad un designer napoletano premiato in tutto il mondo ma legato alla sua città ed al rispetto dell'ambiente. Lo hanno definito il designer ambientalista. È un precursore in tutto il 78enne Riccardo Dalisi. A lui da tempo si deve la teoria secondo la quale ogni progetto, sia nell'arte che nell'architettura, deve essere concepito e realizzato in maniera ecocompatibile, sfruttando tutti i materiali di riciclo possibili. Questa è una lamiera molto sottile. Se io per esempio disegno, cosa vogliamo disegnare? Un uccellino per esempio, no? Ad Alisi, che è stato anche Compasso d'Oro, è dedicato il film documentario Latta e Caffè, diretto da Antonello Matarazzo. In una città come Napoli, in cui il problema dell'ambiente è un'emergenza, ce ne fossero, insomma, artisti come lui che recuperano tutta l'immondizia di Napoli per farci delle opere d'arte, diciamo. È considerato anche in un certo senso un precursore dell'arte povera, avendo già alla fine degli anni 60 messo su dei laboratori di animazione con dei bambini scugnizi del rione Traiano di Napoli, che avevano un futuro, diciamo, abbastanza inquietante. Sono diventati spesso degli artigiani veri e propri, hanno aperto botteghe di lattonai, ramaioli, eccetera, e lavorando su progetti dello stesso Riccardo. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lo sport per chiudere con il calcio. 2 italiane impegnate questa sera nel terzo turno di Champions League. Per Inter e Fiorentina, obbligatorio vincere. Che l'Europa non sia proprio il giardino di casa, l'Inter non lo ha scoperto certo con Mourinho, ma l'essere associato alle 7 partite consecutive senza vittoria in Champions League al tecnico portoghese proprio non va giù. Tanto più che in Italia i nerazzurri continuano a dettar legge indisturbati o quasi. Si vede il recente 5-0 di Marassi al Genoa. Ma quest'anno tutti guardano all'Europa e così centrare quella vittoria che manca da un anno stasera con gli ucraini della Dinamo Kiev è diventato un ordine tassativo, anche se alla vigilia Mourinho ha alleggerito la pressione sui suoi. Mancano 4 partite, mancano 12 punti, non è decisivo. È importante perché ti può portare più tranquillità o ti può portare più pressione. La tentazione irresistibile è riproporre il modulo ad albero di Natale con Eto'o unica punta e un fitto centrocampo a 5 per limitare il dinamismo degli ucraini, che hanno perso sì ma senza sfigurare a Barcellona. Attenzione a Shevchenko, l'area di casa gli ha fatto bene, sembra lontano dall'ectoplasma visto a Londra lo scorso anno al Milan. Dopo il botto con Liverpool, invece, la Fiorentina nel gruppo E veste i panni della favorita e andare a prendersi i tre punti in casa dei pur baldi ungheresi del Debrecen sarebbe una bella ipoteca sul passaggio del turno. Tra Gilardino, Mutu e Jovetic, per i gol decisivi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Domani in campo vi ricordo il Milan in casa del Real Madrid e la Juventus che ospita il Maccabi Haifa. Era l'ultima notizia di questa edizione di GR24. Grazie in regia a Carmelo Lauricella. Il GR ritorna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.